Ich bin ein elektrisches Generator. Ich bin in Paranoia. Sehr tiefe Paranoia. Dunque? Entonces. Et bon. Als bei Midnacht von zu seid. Help me. Credo asilo. Cappa, dai. Dai, cosa c'è? Di nuovo beccato, Drago? Il camion nell'immondizia. Ma ancora? Ma sì, te l'ho detto, lo becco tutti i lunedì. Vabbè, ma parti prima, no? O un po' dopo. Ma ho già provato. Eh? E niente, lo becco lo stesso. Ma è impossibile. Lo dici, Drago, tu che è impossibile. Io sono qui a testimoniare che è possibilissimo. Io ma parto ci prima. Ma deve essere qualcosa sotto. Ah, ecco, vedi che allora vieni nel mio? Vieni nel mio. Ma che lingua parli? Vieni nel mio, vuol dire mi dai ragione. Io da un po' di tempo che sospetto che ci sia un complotto del camion tritta rifiuti contro di me, capito? Ma mettiamo un attimo che sia vero, scusa, il movente qual è? Perché nei complotti manca sempre il movente. Appunto, il complotto non ha mai davvero un movente. Il complotto esiste in quanto tale, in quanto complotto. Vabbè, in ogni caso anche oggi sei arrivato puntuale nonostante il cambio dell'immondizia. Cosa vuol dire? E quindi cominciamo, no? Con la sigla. Credo asilo. Allora, abbiamo qui i risultati parziali del sondaggio sui personaggi preferiti dai nostri... Cos'è? Ma tu non sai mai niente. No, allora, su Facebook niente. È già da qualche giorno che è apparsa questa scritta. No, perché io i sondaggi, quando li vedo anche in televisione a Ballarò... Il lunedì, no, è bello, il lunedì da Mentana, che c'è il sondaggio della settimana... No, quello non l'ho mai visto. Quello di Ballarò, invece, è da addormentarsi. Una cosa... Come si chiama? Pagnoncelli. Cioè, vuol dire, sarà anche bravo il suo mestiere, però due pale. Il cartello 7, poi si vede tutta la paranoia dietro che se sbagliano i cartelli, per cui all'ultimo sicuramente hanno invertito, il 6 viene prima, attenzione, prima del 5. E c'è quello segretario di produzione che prende che scrive, nota, poi loro niente. Chiamano finalmente il cartello 6, viene fuori il cartello 5 regolarmente, poi non c'è, diventa tutto rosso. Io mi risveglio quando sono già al cartello 12, così stanno già andando avanti nella... Vabbè, e i nostri cartelli invece su Facebook dicono: a quale personaggio secondario siete più affezionati? Ioris, il capo scout, Gildo, Manolito, l'amministratore delegato quando c'è, il bidello senza palato, il pizzaiolo egiziano. Completa la lista intanto. Chi manca? Ma manchi tu. Ma sei la lista dei personaggi secondari. Ma appunto. Vabbè, comunque, dai, votano tutti per Gildo. È incredibile sta cosa. Ma praticamente... è incredibile soprattutto perché Gildo non appunto, esiste. Appunto, cioè... Mi chiedo in base a cosa votino, cioè, sti ascoltatori. In realtà, base a cosa? Io lo so, sono tutti i fan del bambino Alberto. Visto che il bambino Alberto non c'è nella lista dei personaggi secondari, votano per Gildo in modo da far contento il bambino Alberto. Capito? Fanno finta di credere che Gildo esista, così il bambino Alberto è contento. Vabbè, la prossima volta che però vedi fai sti sondaggi, siccome tu il sondaggio è uguale matematica, sì, e tu non sei Pagnoncelli, la prossima volta che fai una cosa del genere interpellami, perché almeno togliamo Gildo dalla lista. Hai ragione, ma pensa che io l'ho messo così per ridere, pensavo che tutti ci facessero sopra una risata. Che beh, poi se c'è Gildo dovrebbe esserci anche sua mamma Milfia. Ah no, perché se mettiamo la signora Milfia allora votano tutti per lei. Ed è un altro personaggio immaginario. Allora votate invece per i personaggi veri, non lo so. Hanno votato qualcuno per Ioris? Qualcuno... personaggi veri tipo anche Carmelo Lauricella, che non si capisce se è un personaggio o se è vero, o Laura Faggin o Pietro Lacorte. Votate anche quelli, è vero, dobbiamo mettere anche loro. E poi manca Tito, lo so, lo stavo dicendo. Tito, aia cazzo, guarda che ti castro, Pieno asilo. E ora, bambini, ricreazione. Allora, di nuovo. Adesso, vabbè, non mi salutate neanche. Ma ormai sono anni ormai. Allora, quando lo dico io, dei convenevoli. Comunque, sì, vabbè, convenevoli, visto che li abbiamo saltati, sì. Devo chiedervi una cosa prima di cominciare. Dai, prima di, Dai, vai. Allora, prima di tutto, non sono qui a implorare aiuto da nessuno. Ve lo dico c'entra? Perché. Ecco. Ma tu da solo, cioè, ti autogiustifichi, sì, così. Ti riconosco. Guarda i talk show con i suoi genitori e capisce che i politici fanno sempre delle premesse. Allora, mi riferisco a qualcosa che abbiamo detto 6 mesi fa. Cioè, allora, dai, fai la premessa. Detto questo, l'hai già fatto, ok? Ho solo bisogno di assicurarmi di una cosa: sì. Che voi non facciate parte dei gas. Dei gas, cioè, lo dovete dire, cioè. Che siamo tipo l'aeriforme, no, il gas, cioè l'acronimo di qualcos'altro, gas guitar acquisition syndrome. Non è cominciato a prendermi in giro, cioè, va bene, tanto io ho roba da fare, ce l'ho. Vabbè, allora, gas, il gas, io non ho idea. Il gas, allora il gas vuol dire gruppo di acquisto solidale. Ah, beh, certo, sì, è dove si va a comprare la verdura direttamente da chi la coltiva, si spende meno, forse, non lo so, si mangia la roba buona. Sì, chilometro zero, bravo. No, noi non facciamo parte di quella roba, no, lì, stai tranquillo. No, no, no, meno male, perché... Però allora, è bella, no, come cosa, mi sembra una cosa utile il gas. No, che è utile? Come no? No, per me è diventato un incubo. Perché? Allora, i miei genitori adesso fanno parte di un gas, no? Sì. Quindi due sabati al mese prendono il pullman del gas, e vanno in campagna a fare rifornimento, no? E prendono roba e tornano con centinaia di euro di roba, no? Ma il pullman, cioè, caricano... va a gas. No, vabbè, no, questa no, è una battuta. No, allora, sì, sì, vabbè, comunque è bello, no? Almeno mangiate cose poi buonissime. I pomodori, quelle robe lì. Sane, a buon mercato. Che sì, sì, ma a me quella roba lì non mi interessa. A me interessa che loro spendono un sacco di soldi per questa roba qui. E quindi il budget familiare ne risiede. Quindi chi è che ci smena? Il solito bamba, che sono io. Ma tu cosa c'entri, scusa? Il menage familiare non ti riguarda. Ci sono mamma e papà, ci pensano loro. No, no, il menage qui, perché quando c'è a prendere le botte ci sono sempre. Menage. Sempre per me. Ma, che... allora, che ma menage... non è quello il menage. Vabbè, perché? Dai. Allora, cos'è sto menage? Non ho capito. Ma il menage, la gestione. Non la gestione. Ti devi lamentare sempre. Insomma, ti sfamano, ti vestono. Ai bambini poveri non ci pensi mai? Vabbè, ma io sono mica figlio della serva. E poi questa storia qua dei bambini poveri. Ma, Allora, me la tirate fuori sempre, è troppo comodo. Perché io, se uno dovesse smettere di lamentarsi solo pensando ai bambini poveri, non va bene, non è leale, non sarebbe... Scusami. Posso lamentarmi? Lamenta, no, vabbè, ma adesso altro. Allora, lamentati, allora, perlomeno a tema. Cioè, abbiamo cominciato a parlare dei gas. E non abbiamo ancora detto niente, esatto. Volete dire. Vogliamo lamentarci del gas. Io faccio le premesse. Vabbè, esatto, buonanotte. Poi allora, finita. Quindi stringo e arriva bomba. Sì. Quindi mi arrivo a casa. A luna del pomeriggio vengo a arrivare a casa. Il pullman che lascio giù suona. Pum pum al corriere che devo scendere giù a scaricare. Anch'io, le cassette, no? Sì. Arrivano, allora, oggi abbiamo trovato dei pomodori fantastici, quindi hanno comprato una cassetta, no? Di pomodori biologici, orribili però, perché sono biologici. No, vabbè. Siccome non metti gli antitogamici, certo, tutti gli animali vanno dentro, ma sono sì, tutti, vabbè, sono, ma però che... sono eccezionali. Bambino Alberto, sì, sembrano sì, cattivi, in realtà sono solo brutti, poi sono buonissimi. Vabbè, 35 euro la cassetta, Vabbè, in effetti è un po' caro, Ma come, quanti? 5. Vabbè, 5 kg, vabbè, 5 kg 35 euro, insomma, non è so niente. No, ma vuoi, ma che 5 kg? Questi sono 5 pomodori. Come 5 pomodori? 5 pomodori di 35 euro, 7 euro uno. Ah, 7 euro. E sono biologici, sono speciali, allora, vabbè. Avete capito cosa di ma cosa... Ma il gas è quello, insomma. Non uno... dovrei preoccuparvi. Ma no, vabbè, ma uno va lì e... Ma poi, scusa, almeno non sono finocchi. Non sono finocchio, come faccio a saperlo io? Io non è che col pomodoro c'ho un rapporto di intimità, dai. Com'è che devo fare, scusa? Cioè, il pomodoro, allora, non è che tu... Cioè, adesso dal punto di vista... Io non ho cioè, faccio una premessa prima e dico... No, ma non vabbè, è che tu magari... Cioè, cosa? Partendo lontano, parlare una cosa generica al limite, tu... proprio così, puto a caso... A te ti piacciono gli uomini? Sui nuovi cantieri. Chiedo asilo. Sunshine, sunshine reggae. Oh yeah. Don't hurry, don't worry. Take it easy. Te la ricordi? Certo, anzi, fai bene a farla perché siamo in Danimarca. Vedi? I Layback, questo famosissimo gruppo che cantava Sunshine Reggae, erano danesi. E allora, se vai in un pub in Danimarca adesso e c'è questa canzone in sottofondo e chiedi una Berlusconi, ti servono una birra sfacciata, un po' troppo abbronzata, sto leggendo dalla descrizione della birra, sì, con tanta schiuma e ricca di note di frutta e spezie, il che la rende amabile e un po' dolce, un po' grassa al palato, ma con un lungo retrogusto molto amaro. E Berlusconi. La birra Berlusconi. Eh sì, la birra Berlusconi. Ma che idea è la birra Berlusconi? È l'idea della Stronzo Brewing Company di Copenaghen. E Tito, ma stai bravo, cosa dai. Dici, ma... è tutto vero. Smettetela tu e il tuo cane di mordermi le caviglie. Smettila. No, io non ti sto mordendo le caviglie. Ma Tito sì. Vai, per forza, lui è il tutore dell'ordine. Vabbè, tu te ne esci fuori con la birra Berlusconi del birrificio Stronzo. Ecco, guarda. Tito, ecco. Allora. Ma come cosa ci posso fare io se esistono... Ma cosa ci posso fare io se esistono sia una birra Berlusconi sia un birrificio stronzo? Beh, tanto scusa, che vai a trovare ste notizie. Ma se, c'è qualche buon tempone danese che ha un'idea di marketing così un po' estremo, è stato in Italia, ha detto facciamo uno scherzo agli italiani. Ma tanto in Danimarca nessuno sa cosa vuol dire stronzo. Ma sanno chi è Berlusconi. Quindi la conclusione del ragionamento porterebbe a un insulto per l'ex presidente del Consiglio, per cui chiudiamo così in levare. Sì, birra Berlusconi, birrificio stronzo, è un sillogismo, no? Chiudetelo voi.